Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia, l'ideologico quotidiano. Una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Ezio De Gradi per la regia. L'appuntamento rimane confermato a domenica prossima alla stessa ora. Buona giornata. Repliche mercoledì notte dopo l'ultima edizione del notiziario, testi sul sito di Radio Popolare. Fino al 22 ottobre, l'altra metà di Donna Donne, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Vigevano. Alla Cavallerita del Castello, lunedì 16, una serata con Lella Costa e venerdì 20, Le Radici e le Ali, incontro con Maria Rita Parsi. Sabato 21 nel centro storico, Shahrazad e le altre, maratona di lettura. E domenica 22, Fate, Maghe e Streghe circonderanno il castello, mentre alla Cavallerizza Marco Rossi, Federica Gaspari e Daniela Del Frate parleranno di sessualità al femminile.